Europa 24. Immigrazione, il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk è al lavoro in vista del vertice UE-Turchia di giovedì, dopo l'accordo sui principi del summit della settimana scorsa. La proposta turca per essere accettata dai 28 deve essere ancora riequilibrata, ma non ci siamo ancora, ha scritto Tusk su Twitter in visita a Nicosia. Rafforzare la cooperazione con la Turchia sull'immigrazione è importante, ma non dovrebbe e non sarà l'unico pilastro della strategia comune UE. Cipro non consentirà di aprire nuovi capitoli negoziali per l'adesione della Turchia all'Unione Europea finché Ankara non riconoscerà Cipro come Stato, ha fatto sapere intanto il presidente cipriota Nikos Anastasiades. Intanto il Consiglio Europeo ha adottato il regolamento per un meccanismo di risposta in caso di gravi situazioni umanitarie causate dalla crisi dei profughi nei paesi UE. Questo permetterà di aiutare la Grecia nell'affrontare i bisogni umanitari dei 35.000 migranti bloccati sul suo territorio dopo la chiusura della rotta balcanica. Oggi è prevista la visita del commissario europeo all'immigrazione Dimitris Avramopoulos a Idomeni alla frontiera macedone. La Commissione europea rallenta l'iter sulla procedura di infrazione contro le etichette cosiddette a semaforo adottate nei supermercati del Regno Unito. Intanto sale a 15 il numero di paesi dell'Unione europea contrari alle etichette nutrizionali appunto a semaforo. Una battaglia portata avanti dall'Italia contro un sistema che danneggia i prodotti made in Italy. Ieri, presentato a Bruxelles nel corso del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura dei 28, uno studio Nomisma Federalimentare, secondo cui a perdere la maggiore quota di mercato è il prosciutto di Parma. Sentiamo Luigi Scordamaglia, presidente di Federalimentare. Sì, il segnale è stato soprattutto italiano, speriamo che la Commissione europea lo faccia suo. I dati presentati ieri hanno evidenziato che il semaforo alimentare non solo non fa l'interesse dei consumatori, ma in maniera semplicistica attribuisce ai prodotti di qualità non solo italiani ma europei una valenza negativa, avvantaggiando invece prodotti che sono riformulati, chimici e di bassa qualità. Non credo che questo sia l'interesse, ieri se n'è presa consapevolezza e speriamo che la Commissione proceda con la procedura di infrazione. L'Italia continua a dare all'Unione Europea più di quanto riceve. Nel 2014 il disavanzo per l'Italia fra versamenti effettuati e accrediti ricevuti è salito a 5,4 miliardi di euro a fronte dei 4,9 miliardi del 2013. Lo rende noto la Corte dei Conti nella relazione sui rapporti finanziari con l'Unione Europea. Novità intanto per i cittadini del Perù che entrano nell'Unione Europea. Da oggi i peruviani potranno viaggiare nei paesi europei senza bisogno di visto e viceversa. L'accordo, secondo che gli stati membri firmano con un paese latinoamericano dopo la Colombia, non verrà applicato al Regno Unito e all'Irlanda. È stato firmato ieri a Bruxelles alla presenza del presidente peruviano Ollanta Humala e dell'alto rappresentante europeo per gli affari esteri Federica Mogherini, secondo cui l'intesa avrà un impatto positivo sulla vita delle persone e creerà più opportunità sia per Lima sia per Bruxelles, nel turismo, nei contatti e negli investimenti. Si applica quando il periodo di soggiorno è inferiore a 90 giorni. Porta la firma anche del commissario per gli affari interni e migrazione Avramopoulos, che si è congratulato con il governo del Perù per il rapido rilascio dei passaporti biometrici ai suoi cittadini, un punto a favore dell'immigrazione regolare. Per i media peruviani è il riflesso della fiducia che genera il paese emergente, che da 15 anni vive un processo democratico in avvicinamento ai valori europei e che quest'anno crescerà del 4%. Ma secondo le autorità peruviane, l'esenzione dal visto è un primo passo verso il libero transito delle persone nel mondo e in particolare permetterà anche a molti connazionali di visitare le proprie famiglie in Europa. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Ed è tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.